con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi con nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse con la gravità delle circostanze e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi e alla dignità della nazione. Con affetto di padre e con lealtà di re. Sì, lo so bene, questo è il preambolo dello Statuto Albertino. E potrà sembrare strano che un podcast sulla Costituzione italiana parta dallo Statuto Albertino. Ma tuttavia, noi dobbiamo ricordare che è la Costituzione che ci ha reso cittadini. Prima eravamo sudditi. Per capirlo bene, bisogna proprio partire dallo Statuto Albertino, dal capire com'era un sistema in cui il re era superiore agli altri. In fondo il re aveva concesso, regalato lo statuto ai suoi cittadini perché era una persona sacra e inviolabile, come definito nell'articolo 4 dello statuto. Questa idea del re sovrano, del re superiore, è un'idea che affonda le sue radici nell'antica Persia, nell'antico Egitto, ma che poi si sviluppa per tutto il tardo impero romano e ancora in epoca medievale. In fondo, quando Vittorio Emanuele II diventa re d'Italia nel 1861, lo diventa per grazia di Dio e per volontà della nazione. L'idea è sempre quella. L'idea, in fondo, è che il re sia superiore ai suoi cittadini, scusate, ai suoi sudditi, perché i cittadini sono soltanto sudditi. Il re dello Statuto Albertino, in fondo, somiglia tanto a Costantino, imperatore dei Romani, e come tale imperatore di un solo Dio, o ancora di più al re dei Longobardi, Rotari, che nel suo editto del 643 dice chiaramente: noi crediamo che il cuore del re sia nella mano di Dio e quindi il re non può sbagliare. Questa idea viene completamente superata il 2 giugno 1946. In fondo, il 2 giugno 1946, quando si vota il referendum istituzionale e si elegge l'Assemblea Costituente, accade qualcosa di speciale. In tanti pensiamo che la cosa speciale sia stato il voto alle donne, perché noi sappiamo bene che le donne tradizionalmente non votavano. Il suffragio universale maschile arriva in Italia soltanto nel 1912 e possiamo dire che le donne si conquistano il voto durante la Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli uomini sono al fronte e sono proprio le donne a portare avanti il paese. Ecco allora che le donne voteranno nel 1945 in alcune elezioni amministrative e poi finalmente a suffragio universale il 2 giugno 1946. Ma la novità dal punto di vista istituzionale è anche un'altra. In fondo, quando voglio pensare a quel 2 giugno 1946, riguardo una foto, la foto del re Umberto II che vota nel seggio di Via Lovanio a Roma, non lontano da dove allora era Villa Savoia, l'odierna Villa Ada. Perché quella foto è significativa? Perché il re quel giorno diventa uguale agli altri. In fondo il re sceglie di votare come se fosse un cittadino, come una persona normale. Non è più la persona sacra e inviolabile, superiore alla Costituzione, superiore alle leggi. Ecco allora il grande passaggio. Il 2 giugno 1946 l'Italia diventa una repubblica e noi diventiamo cittadini. Io sono Alfonso Celotto, insegno diritto costituzionale e penso che la Costituzione vada letta e conosciuta da tutti. Ho pensato a questo podcast proprio per leggere la Costituzione. Nella lettura mi aiuterà una voce sicuramente migliore della mia, quella di Gaia Messerklinger, e poi ci saranno i miei brevi commenti. In fondo la Costituzione va letta e conosciuta, e questo ce l'ha detto anche l'Assemblea Costituente, perché l'ultimo articolo della Costituzione è proprio rivolto ai cittadini. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. Questa è la 18ª disposizione transitoria e finale della Costituzione e contiene un'indicazione precisa. I cittadini devono conoscere la Costituzione. Per questa ragione, la Costituzione non venne scritta in burocratese, quella strana lingua contorta, astrusa, con cui noi tante volte purtroppo dobbiamo confrontarci come cittadini, ma la Costituzione è stata scritta in italiano corrente, in un italiano semplice. Fu una scelta ben precisa dell'Assemblea Costituente di scrivere frasi semplici, corte, chiare. Furono due costituenti, che erano anche grandi esperti di letteratura italiana, a indicare le regole. Concetto Marchesi e Piero Pancrazzi cercarono di suggerire ai loro colleghi di scrivere frasi brevi. Mai più di 20 parole, mai più di 20 parole, mai più di una sola subordinata. E soprattutto parole possibilmente di uso comune. La Costituzione è composta da 9.000 parole, 9.000 parole che parlano ai cittadini. Ed ecco allora che noi andiamo a rileggerle. Qualcuno potrebbe dire che la nostra è una Costituzione antica, una Costituzione nata nel 1946-47, quando l'Italia era spaccata in due. Era l'Italia in bianco e nero, l'Italia in fondo dei film di Peppone e Don Camillo. Eppure quella Costituzione è una Costituzione che guarda lontano. Lo disse chiaramente in Assemblea Costituente Piero Calamandrei. Piero Calamandrei era uno dei grandi giuristi che scrisse la Costituzione e proprio nella seduta del 4 marzo 1947, nel giorno in cui si iniziò la discussione generale sul progetto di Costituzione, si raccomandò in maniera vivace e profonda di scrivere una Costituzione presbite e non una Costituzione miope. Secondo me è un errore formulare gli articoli della Costituzione con lo sguardo fisso agli eventi vicini, agli eventi appassionanti, alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell'immediato avvenire, in mezzo alle quali molti dei componenti di questa assemblea già vivono. La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope. Questo monito, questa speranza di Piero Calamandrei si è pienamente attuata. La nostra è una Costituzione che dopo 75 anni è una Costituzione ancora pienamente vigente ed efficace ed è una Costituzione che è riuscita a reggere le istituzioni democratiche per tutti questi 75 anni di Repubblica e addirittura a contenere anche norme per eventi imprevedibili, come ad esempio l'emergenza del Covid. In fondo, nella Costituzione già è scritto, come vedremo all'articolo 32, che la salute non è solo un diritto fondamentale dell'individuo, ma anche un interesse della collettività. Ed ecco allora, come è accaduto, che in nome dell'interesse alla salute della collettività si possono limitare i diritti individuali, quei diritti come il diritto di circolazione e soggiorno, che l'articolo 16 della Costituzione, come vedremo, consente di limitare, ma soltanto per motivi di sicurezza o di sanità. Ecco la Costituzione presbite, cioè una Costituzione scritta per principi, principi applicabili anche dopo molti anni da quando sono stati scritti. Prima di iniziare, bisogna guardare a come è scritta la Costituzione, cioè il suo scheletro. La Costituzione è divisa in tre parti, o meglio, in due parti e i principi fondamentali. Infatti abbiamo i primi 12 articoli che riguardano proprio i principi fondamentali, cioè la sovranità, i diritti fondamentali, l'eguaglianza, le autonomie, il lavoro, i grandi principi della Repubblica. E poi due parti. La parte prima, che riguarda i diritti e i doveri dei cittadini, e la parte seconda l'ordinamento della Repubblica. La parte prima inizia con l'articolo 13 e la parte seconda con l'articolo 55. Questa impostazione della Costituzione è un'impostazione molto classica. È una impostazione molto classica perché trae le sue origini dalla Rivoluzione francese, dalla Rivoluzione del 1789, quando finalmente cadde l'idea del sovrano, del re, superiore alla legge, superiore ai cittadini, e si cercò finalmente di scrivere la Costituzione di un sistema repubblicano democratico. Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 c'è un articolo che definisce proprio la Costituzione, è l'articolo 16. Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata né la separazione dei poteri determinata non ha Costituzione. Può sembrare veramente strano, cioè già nel 1789 si individuano le due parti della Costituzione, diritti e doveri dei cittadini e ordinamento della Repubblica, separazione dei poteri. Queste sono le cose che devono esserci in una Costituzione repubblicana, in una Costituzione democratica. Buon ascolto e buona lettura della Costituzione repubblicana.